meccanica dei corpi, come nodi strettissimi di mani, da non poter fuggire, anime sorprese dalle voglie, banditi e trafficanti di perle, di gocce trasparenti sulla pelle. Dolce meccanica dei sensi, spiriti uniti dal sangue che freme, poter urlare all'infinito, lacrime mischiate all'ironia, ridendo con gli occhi sussurravi parole disarmanti. Dammi la parte migliore di te, la parte più lontana all'estremo oriente, baci che non puoi mai più dimenticare, in un vortice di istinti adolescenti indimenticabili. Sì, indimenticabili. Inchiodata dagli occhi, quando l'amore era l'unico padrone, quando lo sguardo diventava azione e il cuore era un fiume di passione, trafitta da sogni incatenanti, mordevi le mie labbra e le parole. La parte più lontana all'estremo oriente, baci che non puoi mai più dimenticare, in un vortice di istinti adolescenti. Dammi la parte migliore di te, la parte più vicina al tuo occidente, lacrime cadute mai dimenticate, come certi amori unici, indimenticabili. Più lontana all'estremo oriente, baci che non puoi mai più dimenticare, in un vortice di istinti adolescenti. Dammi la parte migliore di te, la parte più vicina al tuo occidente, lacrime cadute mai dimenticate, come certi amori unici, indimenticabili. Sì, indimenticabili.